giorno di maggio, che dirvi non so, un di Paperina col babbo passò, che vide degli alti papaveri al sole brillare, e lì si incantò. La papera al papero disse: papà, papare papaveri come si fa? Non puoi tu papare papaveri, disse papà. Soggiunse poi beccando l'insalata: che cosa ci vuoi fare così alla vita? Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti, e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti, sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Vicino un rossello che dirvi non so, un altro papavero in acqua guardò, e vide una piccola papera bionda giocare, e lì si incantò. Papavera la mamma disse: mamma, pigliare una papera come si fa? Non puoi tu pigliare una papera, disse mamma. Se tu da lei ti lasci impaperare, il mondo intero non potrà più dire: lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti, e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti, sei nata paperina, che cosa ci vuoi far? In un campo di grano che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò: papavera attese la papera al chiaro lunar, e poi la sposò. Ma il breve romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò, e un colpo di venti il papavero in alto portò. Così papaverino se n'è andato, lasciando paperina impaperata. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti, che tu sei piccolina, che tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti, sei nata paperina, che cosa ci vuoi far? Che cosa ci vuoi far? Che cosa ci vuoi far?